Scritti addosso come i muri, vogliono berci come fuggi. Ho mio fratello Mario e Luigi, se vedi la Dark fuggi. Se vedo le guardie fuggo, lei ti chiama tesoruccio. Con la gang dice faccio di tutto, con la gang giuro ho fatto di tutto. Ho visto di tutto, visto di tutto. Ho la merda in testa se provo a dormire, calpesco ste merde. Dice porta bene, Tony porta soldi ed è per sopravvivere. Vuoi sopravvivere? Allora comportati bene. Giungle di iene, città di merda. Vorrei andare via ma non è così semplice. Tu mi conosci, non conosci niente. Non sono un quadrato né un tondo, sono un triangolo e lo sarò sempre. Vuoi essere dark? Tagliati le vene ai polsi e resta a guardare cos'esce. Guardare cos'esce. I pacchi con l'erba e la merce. Speriamo che nessuno dica niente. DPG 777. Xanax nelle tasche del Gucci, pelle di cervo, vestiti d'Hermès. Lei mi pensa pezzi per stare sveglio, ti prego. Chiama la tua donna, mi sta dando il tormento. Soldi e li spendo, 10 kg nel parcheggio, io non mi fermo. Lettere avvocati per chi sta dentro. Fumando erba da un cesto, se vuoi le rocce ce l'ho. Liquido sopra.